Steve a mis au point différents réservoirs. Statement, any minute from now. 1-0 up. E ci sono novità anche su... Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile. Di Riccardo Chiaberge. Buongiorno e bentornati alla Finestra sul Cortile, il nostro appuntamento settimanale con le pagine culturali dei giornali di tutto il mondo. Parole, parole, parolone, parolacce, parole sacre, parole profane, parole nuove, parole vecchie. La lingua che parliamo e scriviamo è una realtà in continuo movimento. C'è chi dice che si impoverisce per l'uso di internet, degli SMS, chi lamenta che si imbastardisce per le contaminazioni con l'inglese e chi invece assicura che si continua ad arricchire di sempre nuovi vocaboli. Ma che ne è delle parole che non si usano più o che usano solo le persone colte o erudite di una certa età? Dobbiamo buttarle nella spazzatura? Non sarebbe meglio buttare gli orribili neologismi del managerese o degli altri gerghi oggi in voga? E questo è uno dei temi di cui parleremo nella puntata di oggi della Finestra sul Cortile. Ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro menù. Stati Uniti. Sta per uscire la Bibbia Verde, una rilettura ecologica delle Sacre Scritture. Inghilterra. Parole che nascono, parole che muoiono. Ma il Times propone ai lettori, se una parola vi sta a cuore, salvatela. Los Angeles. Vivere un anno senza mai buttar via niente. Questo l'obiettivo di un giovane cameraman che si racconta in un blog. Siria. Aga Khan si trasforma in magnate e stanzia fondi per promuovere la grandezza della civiltà islamica. Germania. Al Museo Ebraico di Berlino una mostra sull'arte trafugata agli ebrei. Se ne trova perfino su eBay. Austria. Quadri brutti come il peccato. In mostra a Vienna i dipinti peggiori del Novecento. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. La voce indimenticabile di Mina in una canzone celeberrima del suo repertorio Parole e Parole ci introduce al tema della puntata di oggi, che sono per l'appunto le parole desuete che il nuovo dizionario inglese Collins si propone di abolire. Ma il Times ha lanciato un'iniziativa, un appello ai suoi lettori. Dice: se siete affezionati ad alcune parole che devono essere espunte dal dizionario inglese per fare spazio ai neologismi, difendetele, salvatele votando per le vostre parole preferite. E Jack Malvern, un giornalista del Times, si è divertito a scrivere un articolo usando alcune di queste ricercate parole, tipo agrestic, che è qualcosa come maleducato, caliginosity, che vuol dire tenebre, buio, oppure embrangled, che vuol dire, non so, confuso, o recrement, che è un sinonimo di spazzatura, ma tutte parole poco usate, o vilipendo, vaticinate, vilipendere o profetizzare. E poi cita alcuni lettori eccellenti come Stephen Fry, il comico e showman, che ha scelto la parola fabsi, che vuol dire tozzo, tarchiato, basso, oppure Andrew Motion, un poeta che vota invece skirr, scritto skirr col K, che vuol dire un rumore come di frullare di ali. E quindi insomma ogni lettore cerca di identificare quella che è la parola a cui tiene di più, anche se è una parola poco usata nel lessico di tutti i giorni. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono l'ospite, che la professoressa Nicoletta Maraschio, che salutiamo. Buongiorno. Docente di storia della lingua italiana all'Università di Firenze e presidente dell'Accademia della Crusca, la prima donna presidente. Ecco, si parla tanto di neologismi, ogni anno i dizionari ne aggiungono di nuovi, no? Ma non si buttano mai via le parole. Questo è un po' una tendenza italiana, cioè aumentano i lemmi dei dizionari invece di fare spazio come quelli del dizionario Collins vogliono fare, abolendo delle parole. Cosa ne pensa di questa politica? Ma naturalmente dipende poi da lingua a lingua, le storie sono anche diverse. Nel nostro caso, per quanto riguarda l'italiano, certo, i neologismi ne stanno entrando moltissimi. Lei sa che nel corso del Novecento è quasi il 50% del lessico italiano è stato rinnovato, naturalmente legato alla modernità, alle nuove scoperte, alla scienza, alla tecnica, eccetera. Quindi è logico che molti neologismi siano entrati. E le date di nascita non sono difficili da documentare, soprattutto oggi, perché certo, abbiamo delle banche dati, e quindi molti colleghi hanno scritto dei dizionari di neologismi dove registrano varie occorrenze di parole che magari però sono sì destinate a morire rapidamente. E infatti, un discorso diverso riguarda il nostro patrimonio tradizionale, ecco, perché mi sembra che i casi inglesi non siano tanto dei neologismi, ma invece siano delle parole, per così dire, auliche, insomma ricercate, poco usate. E allora lì il discorso è molto diverso, perché in una lingua non si sa mai che cosa può succedere, e basti vedere il caso di rete. Rete è appunto vecchia parola, oggi è usatissima naturalmente con un altro significato, e ci sono tante parole antiche che magari restano latenti per un po' di tempo, ma poi vengono ripescate per motivi diversi. Quindi i conti fra nascite e morti non sono mai molto facili. Ecco appunto. E poi ecco, perché buttare via gli arcaismi e invece tenerci magari delle parole orribili del gergo, che ne so, manageriale o del politichese, come si dice, no? Che come diceva giustamente lei, sono parole che poi hanno una vita molto breve, perché magari durano una stagione e poi cadono immediatamente nel dimenticatoio. Quindi perché inciderle nelle pagine dei nostri dizionari? Sì, insomma, i dizionari più consapevoli, proprio i dizionari dell'uso, quelli sincronici, cercano di selezionare, quindi non è che accettano la marea di neologismi che invece sono registrati proprio dai dizionari di neologismi. Certo. Non so, quindi è molto interessante fare un confronto fra i dizionari di neologismi e i dizionari dell'uso e vedere quello che è restato e quello che no. Non so, per esempio, noi abbiamo il Panzini che ci ha aiutato tanto nel Novecento perché ha registrato, e quindi si vede che, non so, se regista, ora parlo di parole più già assestate, regista è passato, una parola che ha inventato Bruno Migliorini, autotrenista no, perché è passato camionista. Certo. Berlusconismo è passato, lettismo legato a Gianni Letta. Pure è registrato nel dizionario di neologismi, per ora non mi sembra che sia entrato. Non ha avuto molto successo. Non forse, ancora, ecco. Forse perché fa pensare più a letto che a letta. Ecco, infatti, quindi poi sì, ci sono anche delle questioni di formazione delle parole, di regole e quindi possibilità di ambiguità. Ecco. Ecco, ma per esempio ci sono delle parole che un grande giornalista come Montanelli usava e che sarebbe un peccato invece che venissero, che magari se fossero inglesi verrebbero rottamate, tipo, non so, bischero, bischerata, oppure zebedei. Erano delle parole che punteggiavano i suoi articoli, scritti sempre in quella prosa così limpida, no? E così moderna, così comprensibile, però ogni tanto sfuggiva una parola che sicuramente per i giovani d'oggi non significa nulla, no? Cioè, io ricordo che per esempio una volta ho presentato un mio libro in una università a degli studenti di lettere e questi non sapevano cosa voleva dire giaculatoria, ecco, per dire, no? Certo, sì, naturalmente questi sono dei casi molto interessanti, ma ce ne sono anche altri, per esempio garbare, io non lo dico, perché appunto bisogna distinguere poi tra quello che noi capiamo e quello che noi usiamo. Mi garba, a Firenze lo dicono tutti i giovani, no? Ecco, e però non è più attestato, diciamo, con frequenza alta, e non è più attestato nella letteratura, eccetera. Ora, però, significativamente questa forma sta riprendendo piede, perché da una parte lo usano i giovani fiorentini, che hanno piacere, come tutti i giovani di tutta Italia, di recuperare anche, tra virgolette, il loro dialetto. E poi i molti allenatori toscani, che ora sono sulla breccia, lo usano. Anche quindi, sui campi di calcio, insomma, la lingua rivive. Calcio, non è vero che la lingua si stia impoverendo, insomma, ma ancora delle sue dinamiche spontanee. Insomma, noi ringraziamo la professoressa Maraschio, buona giornata e auguri per il suo lavoro e per la Crusca. Grazie mille, arrivederci. E ci spostiamo in Austria, dove al Museo Mumok di Vienna c'è una curiosa mostra, Bad Painting, che è dedicata proprio alle opere più brutte uscite dagli atelier di grandi artisti, quadri di cui Giorgio De Chirico, René Magritte, Georg Baselitz e molti altri non sono mai andati particolarmente orgogliosi. Ma è proprio questo il bello di una simile fiera del kitsch. Dopo anni di vernissage sofisticati e pretenziosi, per una volta il comune visitatore finalmente non si dovrà vergognare se gli capitasse di giudicare le opere esposte delle vere schifezze. E andiamo in Germania, dove a 60 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ancora i ricordi dei crimini nazisti non sono sopiti. Tra le vessazioni del regime di Hitler ci fu anche l'aggressiva e sistematica espropriazione di oggetti d'arte ai collezionisti ebrei. E ancora oggi, ci informa il nostro Alessandro Melazzini, su siti di aste elettroniche come eBay può accadere di incappare in oggetti sottratti illegalmente al tempo del Terzo Reich. Alla storia delle rapine d'arte perpetrate nell'Europa degli anni 30 e 40 è dedicata la nuova mostra del Museo Ebraico di Berlino, che illustra anche il difficile percorso compiuto dagli eredi per cercare di tornare in possesso dei tesori appartenuti alle loro famiglie. Nel raccontare i fatti, i curatori hanno scelto di rinunciare a una esplicita presa di posizione, lasciando spazio al dibattito sorto in merito al diritto di togliere agli attuali proprietari i beni un tempo rubati agli ebrei. E la cosa, naturalmente, non manca di suscitare polemiche. E restiamo nel campo dell'editoria, ma dai dizionari passiamo alla parola sacra, alle scritture. Alla Bibbia, il libro più letto e più importante del mondo, che si presta a nuove e continue interpretazioni. E l'ultima, in ordine di tempo, la vera novità dell'editoria americana, che uscirà il 7 di ottobre da Harper Collins, è un'edizione della Bibbia in chiave ecologica, la Bibbia Verde, The Green Bible. Ne parla il settimanale americano Time in un articolo di David van Biema. E che cosa apprendiamo da questo articolo? Che in realtà la componente ecologica e i temi legati alla natura e all'ambiente nelle pagine della Bibbia sono numerosissime. Come dice, scrive David van Biema, sono come un vigneto che serpeggia, che corre attraverso i libri sacri. Si parte dal giardino dell'Eden, dal ramoscello di olivo di Noè, per passare attraverso le querce sotto cui Abramo si incontrò con gli angeli, ai salmi con gli alberi accanto all'acqua, e ancora a Gesù che descrive il regno dei cieli come un bosco in cui ci possono essere degli alberi in cui gli uccelli possono fare il nido. In questa edizione della Bibbia Verde di HarperCollins i curatori hanno raccolto ben 1000 versetti legati alla natura e nella prefazione l'attivista eco-evangelico Matthew Sleeth scrive che la cura della creazione è il nocciolo del cammino cristiano. Naturalmente ci sono, oltre a versetti della Bibbia, anche citazioni dalla letteratura cristiana di tutti i secoli, da San Francesco d'Assisi a Papa Giovanni Paolo II, a Desmond Tutu, al vescovo anglicano Wright, e ovviamente già si annunciano delle polemiche, perché non tutti i cristiani o cattolici o i credenti americani sono d'accordo su questa politica editoriale, su questa interpretazione. Per esempio, il leader dei battisti del sud, Richard Land, ha già dichiarato che certo la natura è importante, ma quando chiesero a Gesù che cosa fosse la cosa più importante, lui disse: ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo come te stesso, e dice non parlò assolutamente della creazione o della natura o dell'ambiente. Ma intanto abbiamo al telefono Vito Mancuso, che salutiamo e ringraziamo. Buongiorno. Buongiorno. Mancuso, docente di teologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e autore di L'anima e il suo destino, tra l'altro, che è stato un bestseller uscito da Cortina l'anno scorso. Una sorpresa, un bestseller in campo teologico, che è una cosa abbastanza rara nel panorama editoriale. Ecco, di solito gli ambientalisti o certi ambientalisti accusano la tradizione giudaico-cristiana di essere troppo antropocentrica, no? Di fare dell'uomo il signore assoluto della natura e quindi in qualche modo di essere all'origine dello sfruttamento delle risorse del pianeta, no? Invece da qui apprendiamo che la Bibbia in realtà è piena di pagine ecologiche, insomma. Ma guardi, lei diceva all'inizio che la Bibbia è il libro più letto e più interpretato. Ovviamente è vero, proprio al riguardo di questa questione noi possiamo dire che è proprio la sensibilità contemporanea. Siamo noi oggi a tirare fuori dalla Bibbia i 1000 versetti legati alla natura. Certo, è la nostra sensibilità. Un tempo si sarebbe fatto, al tempo delle crociate, magari avrebbero fatto una War Bible, tirando fuori dalla Bibbia versetti legati al combattimento, all'esercito, alla guerra. Lo fanno anche adesso, lo fanno. Prego? Lo fanno anche adesso certi evangeli. Sì, qualche indizio in questa direzione, anche più di un indizio c'è. Ma questo per dire che cosa? Che in realtà la Bibbia è una biblioteca di 73 libri diversi, composti in epoche diversissime, che non può prescindere, che di fatto non prescinde dallo spirito di chi la legge e di chi la interpreta. Certo. Questo quindi per dire che è vero che nella Bibbia c'è questo aspetto ed è altrettanto vero quello che diceva il pastore Battista, che lei ha ricordato in contrapposizione, ma nella Bibbia ci sono altre pagine, ci sono altri valori e così via. Rimane che la Bibbia, a mio avviso, è quel vaso di cera di cui già Hegel diceva 200 anni fa, un vaso di cera appunto che ciascuno modella secondo le sue sensibilità. A conferma di quanto lei dice, si potrebbe osservare che questi evangelici, questi newborn Christians, che tra l'altro alcuni di loro sostengono anche questa edizione in chiave ambientalista, poi sostengono il texano Bush, che non è certo un ambientalista, insomma, che anzi è amico dei petrolieri, che si è opposto al protocollo di Kyoto, quindi insomma ci sono delle contraddizioni evidenti, insomma, anche in questo fronte. Sono evidenti, ma le contraddizioni sono destinate ad accompagnare sempre il nostro cammino. L'importante è avere l'onestà di vederle. Non sarà possibile, io immagino, raggiungere uno stadio spirituale dell'umanità nella quale non avremo più a che fare con le contraddizioni. Detto questo, io comunque vedo con favore questa sensibilità ecologica, non solo e non tanto come cura per l'ambiente, certamente è decisivo questo aspetto, ma insomma è così ormai entrato in tutti i partiti, in tutte le sensibilità, che non ci sarebbe bisogno di ribadirlo. Ma direi che ancora di più noi dobbiamo considerare che quando diciamo natura ridurre la natura semplicemente all'aspetto ambiente, all'aspetto certo. verde, è appunto riduttivo, è qualcosa di più, è qualcosa di molto più profondo la natura. Quindi quell'obiezione del pastore Battista, Gesù ha risposto dicendo amore e non rimandando al creato, fa vedere, suppone un'impostazione mentale che da una parte presenta la natura, pone la natura, e dall'altra parte pone l'amore. Ecco, io ritengo certo. questa impostazione sbagliata, errata. Infatti, ecco, e questo era un punto su cui volevo chiedere la sua opinione. Ecco, secondo lei la Chiesa di oggi è sensibile ai problemi ambientali oppure è soltanto ostile alle manipolazioni genetiche quando queste riguardano l'uomo? Perché è questo il punto, no? Cioè, lei giustamente dice la natura non si può separare dalla persona umana, insomma, dall'amore, no? Sì, noi siamo natura, siamo un pezzo di mondo. E comprenderemo la natura, la filosofia della natura, cominciando anche a ragionare su di noi. Cioè, io penso che la distinzione natura-cultura sia da superarsi, non è per niente superata nella testa delle persone, ma sia da superarsi, presuppone una modalità appunto ancora acerba di considerare le cose. Lei mi chiedeva della Chiesa di oggi, ma ovviamente per la Chiesa di oggi valgono le medesime osservazioni che abbiamo fatto a proposito della Bibbia. Certo. Nella Chiesa di oggi, come nella Chiesa di ieri, ci sono sempre state e ci sono quindi ancora oggi sensibilità molto diverse, molto attente alla salvaguardia del creato. Benedetto XVI l'ha ricordato, continua a ricordarlo nei suoi interventi anche recenti. Ricordo l'assemblea di Basilea di 20 anni fa, probabilmente quella presieduta dal Cardinal Martini, di tutti i vescovi europei, e lì si parlò proprio di salvaguardia del creato. Quindi è una sensibilità che esiste, esiste come? E ripeto, pensare di dire da una parte c'è la persona umana e dall'altra c'è la natura, un conto è la natura, un conto è la persona umana, ecco, significa seguire una via che non porta alla lunga da nessuna parte. Ecco, ma per esempio il termine naturale viene usato spesso riferito, per esempio, al termine della vita o alla sua nascita. Ecco, ma che cosa c'è ancora di naturale nella nostra esistenza, insomma, con la tecnologia medica che ci accompagna, insomma, praticamente dal momento della nascita alla morte? Ma la tecnologia medica ci può accompagnare solo nella misura in cui è al servizio della natura. Certo. Quindi è tutto natura, cioè noi siamo immersi nella natura, anche in questo momento io e lei stiamo parlando, certamente la tecnologia ci aiuta e fa sì che il telefono possa trasmettere la nostra voce, i radioascoltatori ascoltano, ma alla base di tutto c'è il fatto che io respiro, che lei respira, che il nostro sangue circola, le nostre particelle subatomiche si relazionano e formano, sì. e formano tutti i vari livelli successivi dell'organismo. Quindi noi siamo immersi in questa natura physis che continuamente si modella e ci sorregge. La tecnologia io la vedo ancora come uno strumento, insomma. Sì, quindi non, uno strumento, a volte buono, a volte no, ma insomma funziona solamente nella misura in cui serve la logica complessiva, immensa, cosmica della natura. Bene. Cosa può essere la piccola tecnologia terrestre rispetto alle leggi cosmiche di questo universo sterminato? No? Certo, noi ringraziamo il professor Mancuso e gli auguriamo una buona giornata. A presto. Grazie, grazie, buongiorno. E a proposito di ambientalismo, sul País leggiamo di un curioso personaggio, Dave Chemaides, che è un ecologista e un cameraman di Los Angeles, che ha deciso di passare un anno intero accumulando tutta la spazzatura che produce nel sotterraneo di casa, ricorrendo a tutta una serie di procedure di riciclaggio, usando per esempio dei lombrichi, dei vermi che divorano la plastica, divorano gli avanzi di cibo. E con questo sistema vuole ridurre, insomma, l'impatto ambientale della propria esistenza quotidiana. Un anno senza produrre monnezza, e ne ha ricavato un video che sarebbe bello poter mostrare, questo video, nelle scuole non soltanto di Napoli ma di tutta Italia. E ci spostiamo in Medio Oriente, sulle pagine del quotidiano libanese Daily Star, apprendiamo che l'Aga Khan, il miliardario 71enne leader spirituale dei 15 milioni di musulmani ismailiti, ha deciso di dedicare, di devolvere una parte del suo immenso patrimonio alla tutela dei beni culturali islamici, a cominciare dalla cittadella dell'antica città di Aleppo in Siria, dalla fortezza di Masyaf dell'ordine degli assassini e dal castello del conquistatore arabo il Saladino. Che cosa dice Annick Benoit nell'articolo del Daily Star? Cita una dichiarazione dell'Aga Khan, che ha celebrato l'anno scorso i 50 anni della sua leadership nella comunità ismailita. Dice: dato che non conoscono la nostra storia, la nostra letteratura, la nostra filosofia e non conoscono nemmeno l'ambiente fisico in cui i nostri paesi sono vissuti, gli occidentali non hanno alcuna idea o hanno delle idee sbagliate sulla nazione musulmana. Certo, forse se l'Islam avesse avuto meno Aga Khan, meno sceicchi miliardari, meno dittatori e più democrazia, non sarebbe nelle condizioni in cui è. E per oggi è tutto. Ringrazio Laura Marchesi in redazione, Filippo Aureggi in regia e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.